Ecco, sono qui per dirvi che non voglio più scappare, ma fermarmi per mostrarvi ciò che vedo oggi intorno a me. Gente che corre senza idee, in cerca forse di quel qualcosa che non riesce più a trovare in sé. Perché vedo troppi volti intorno a me che non comprendono il perché siamo arrivati fino a qui, dando importanza a quello che solo apparenza e nulla più, dimenticandoci di questa realtà della sua semplicità. Perché è un vecchio narra ancora un'altra storia, qualcuno si domanda se ci porterà fortuna, se forse il sogno di un'aurora nuova dove possa tornare di nuovo tutto come prima. Troppe volte abbiamo ripensato a quello che saremmo se ci fossimo fermati un po', guardando meglio dentro noi, sempre di fretta. Non sappiamo più ascoltare la nostra anima, scivoliamo sempre più, sempre di più. E un vecchio narra ancora un'altra storia, qualcuno si domanda se ci porterà fortuna, se forse il sogno di un'aurora nuova dove possa tornare di nuovo tutto come prima. Ecco, sono qui per dirvi che io ho fatto la mia scelta, adesso tocca a voi. Domani, quando un nuovo sole nascerà,